And now back to the trattoria. Sì, ma prima quattro parole nuove. Le ascolti e le ripeta dopo la seconda volta. Conosci. You know, or do you know? Informal. Conosci. Cameriere. Waiter. Cameriere. Proprietario. Owner. Proprietario. Spesso. Often. Spesso. Here are those four words again. Cameriere, proprietario, spesso. And lastly, conosci. From the verb to know. Conoscere. Io conosco. I know. Tu conosci. You know, informal. Lui conosce. He knows. Lei conosce. She knows, you know, formal. Noi conosciamo. We know. Voi conoscete. You know, plural. Loro conoscono. They know.